Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno, alla francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Si affronta la questione degli sbarchi dalla Libia semplicemente parlando alla pancia delle persone. Qualcuno dice che questo è il modo per vincere le elezioni. Renzi insulta la Lega, ma alla fine è costretto ad arrivare alle conclusioni della Lega, perché bisogna affondare i barconi, bisogna andare in Nord Africa a identificare le persone, bisogna respingere i clandestini, bisogna arrestare gli scafisti. Ci ha messo 5.000 morti e 2 anni di tempo per arrivare a quello che sostiene la Lega da tempo. È un becchino incapace e pericoloso. Che li mettono in acqua e chiamano la guardia costiera, ci sono gli italiani, c'è il servizio taxi Renzi Alfano. Peruano, clandestino, marijuana, illegale. Abbiamo sempre saputo che eravate un governo di bugiardi, sappiamo da qualche settimana che siete anche un governo di assassini. Albanese clandestino, boliviano clandestino, mexicano clandestino, marijuana illegale. Quando sento dire nei dibattiti televisivi dobbiamo scoraggiarli, ma non è che li scoraggiamo perché loro guardano Ballarò o Agorà e vedono qualche autorevole parlamentare europeo o italiano che minaccia fuoco e fiamme. Non ne usciamo più da questo dibattito messo così. Certo, oggi l'Europa decide. Decide, tutti pronti, l'opzione militare. Siamo pronti, andiamo coi droni a bombardare. Forse. Il Corriere della Sera fa sapere che fonti militari sono basite dagli sproloqui di questi giorni perché non abbiamo la tecnologia militare per bombardare nulla. Vabbè. Sentiamo Manu Chao, va. Quindi tutto è la cosa migliore. 6:33 minuti, questo è 24 mattino, Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, il dibattito è questo, becchini, assassini, governo di sciacalli, sciacalli voi che speculate, staremo a vedere. Qualcun altro invece su Repubblica dice che forse parte l'opzione militare, ma ci vuole un po' di tempo, l'ONU, la burocrazia, vediamo di fare prima dell'inverno, che poi in inverno non partono più, se mai uno volesse decidere. No, vabbè, è un consiglio. Oggi abbiamo 2 straordinari ritorni qui al Parlamento. La nostra, ex direttrice della Padania. La nostra. Sarà l'aurora. È lei, l'aurora. Aurora Lussana, buongiorno, come stai? Ciao. Ma buongiorno a te, caro Milan, come sempre un carissimo saluto ai tanti amici di Radio 24 e lasciami sentire dopo che le straordinarie parole della canzone Aurora di Rosa Ramazzotti, anche il nuovo sacerdote dei clandestini. Chi è? Non lo senti? Chi è? Non si sente bene, chi è? Gianni Morandi? Ma chi è Gianni Morandi? Eh sì. Mamma mia, Gianni Morandi. Adesso ci arriviamo. Ci arriviamo. Mamma mia, non si sentiva bene. Gianni Morandi ha fatto un post su Facebook. Ha detto solidarietà ai migranti. Migranti si chiamano, Aurora Lussana. Migranti, impara questa parola. Migranti. Prova il richiamo della carta di Roma. Segui il labiale. Migranti. Sì, hai paura di dire clandestino. C'hai paura. Ma va, ho messo Manu Chao clandestino, figurati, in apertura. Vabbè, ma comunque insieme a Aurora Lussano adesso arriviamo, c'è la nostra Veronica il se non mi sbaglio la nostra Canonica, Veronica Gentili, pensatrice. Buongiorno, ciao Veronica. Buongiorno, oggi abbiamo cambiato stacchetto, tutti li visto? Stiamo visitando tutte le Veroniche del mondo in musica, noi le cerchiamo per... Che meraviglia, buongiorno. Tu come va? Tu, clandestini, va bene? Stamattina infatti la vedo osè perché temo che ci sarà uno scontro frontale così, un G2 al vertice violento tra Aurora e Veronica, no? No. Allora Gianni Morandi, lei si ispira a modelli di violenza, essendo cresciuta nella cultura dell'intolleranza. Una nota esatto, violenta a Veronica Gentili, una black block, Veronica Gentili. Non so cosa c'entra la violenza. Ma no, violento era ironico, Aurora. Dai, era ironico. Su, dai, ti sposi Aurora il 6 giugno. Fai ecco. Capisco che lei si eccita a immaginare i leghisti anti-immigrazionisti violenti, ma guarda che c'è tanto di quella gente pacifica che è contro lo sradicamento dei popoli, che lotta per l'autodeterminazione dei popoli e non vuole questo neocolonialismo, questi negrieri contemporanei li combatte da tempo. Perché c'è un manifesto della Lega del 1984 contro l'immigrazione di massa. Ecco, lo sapevo. Prima dell'immigrazione di massa, però c'è tutto quello che è accaduto prima, per cui ora si verifica l'immigrazione di massa, quindi pensare di tamponare le conseguenze... Scusa, posso farti una domanda, Veronica? Vai. Sei a casa tua adesso? Sì. Sì, c'hai la no, porta potevi dire chiave? Potevi dire se eri a casa di qualcun altro, ce lo potevi dire. Avrebbe detto, avrebbe storia, no? Ha mentito, è a casa di qualcuno, ma non chiaro, sappiamo. Comunque non ve lo direi. Vabbè, insomma, a casa tua di solito chiudi a chiave la porta? No. No, la lascio aperta. No, non la chiudo a chiave. Ah, la chiudi, come mai? Ma non a chiave, chiudi le porte. Ma cosa c'entra Aurora? Perché ci sono i migranti che gli sfondano la porta. Lei vuole aprire le porte della nostra comunità a tutti. Comincia a aprire le porte di casa. Guarda, con me questo discorso non calza tanto, perché se c'è una che nella vita agisce come predica sono io. Di solito non tendo alle incoerenze Salvini style, che anti-divorzio breve. E poi nella vita non mi ma sembra che Salvini non può avere votato ieri sul divorzio no, breve, non perché votato, non siede alla Camera, però è contro. Vabbè, aspetta, stiamo mettendo insieme anche il divorzio breve, no, però concessione per Salvini nel nostro paese, vabbè, che è un bel ragazzo, un bel tocco di manzo, per carità, ma dai, un tocco di manzo, no, aspetta, fermati Aurora, giudizio estetico Veronica, però sì, oggettiva. Io che l'ho visto dal vivo, intanto è vero, la TV... No, il mio moroso è più bello, però... Vabbè, ragazzi, smettila, non ti salvi così. La TV ingrassa, Salvini è molto più magro di quello che sembra in TV. Ecco, questo va detto. Però, Veronica Gentili, vorrei un tuo parere estetico su Matteo Salvini, dai. Non appartiene proprio alle categorie catalogabili. No, dai. Sì, proprio umana. Ma si è detto che ha un'aria purtroppo da un po' così da bambacione, per usare un termine caro alle cronache contemporanee. E poi ultimamente ha sempre il naso un po' storto. Lo notavo ieri in quest'aria di ribrezzo perenne. Ogni volta che parla, ma è Lombrosiana, sta ragazza. Vabbè, vero? Ma questo non è male essere Lombrosiana. Guarda che la fisionomica la dice lunga. Ecco, vabbè, comunque eravamo a Gianni Morandi su Facebook ha fatto un post, anzi possiamo sentirlo perché è la nostra Aurora. Gianni Morandi su Facebook ha scritto solidarietà ai migranti, eccetera. È stato subissato di insulti e poi dopo ha dovuto scrivere un altro post a dire: ma sono sorpreso, ha fatto un po' lì il radical chic, in che mondo, in che paese pensa di vivere. È chiaro che se tu scrivi delle cose trovi persone, Veronica, che ti dicono: ma io rovescerei il barcone con le mani, muoiano tutti, compaiano. Però Alessandro, io non sono, in questo caso non lo trovo tanto radical chic, nel senso che ormai c'è il tormentone delle parole buoniste e radical chic, a meno che uno non dica no, ma la pancia del paese è quel, chi è che va su Facebook a commentare un post di Morandi, cioè quello, guarda, che si vuole, il mio commento ieri sera su questa cosa è stato su Facebook Leoni e nella vita coglioni, nel senso che poi appunto la gente poi non ha neanche il coraggio di esternare fino in fondo nella vita le cose che pensa, quindi sui social network c'è una violenza senza senso nei confronti di questi disgraziati, perché poi di questo si tratta, ma purtroppo non si vuole vedere più. Aurora, che fastidio ti dà Gianni Morandi? Il classico se li porti a casa sua, a lei? No, vabbè, ma è inevitabile, no? Si ammantano di umanitarismo, di pietismo, ma città probabilmente, ma probabilmente, guarda, credo che alla fine chi vomita sui social tutta questa rabbia sia di solito una persona molto impotente, molto frustrata. Quindi, ripeto, chi usa Salvini per apparire umano è uguale a chi usa la violenza verbale sui social per apparire disumano. Oh, eccolo. Ma se Salvini si propone come modello in questo senso, però non c'è nessuno di guarda noi. Guarda, se si applicava la dottrina Salvini nel nostro paese, sì, tutto risolto. Non moriva giù tutta quella gente. Tutto risolto, tutto risolto. No, però scusa, quello. Aurora, no, ti dico soltanto che la dottrina Salvini magari l'adotteranno adesso. Sì, però Aurora, scusa, a me la sensazione è che Matteo Salvini voglia anche un po' questo scontro. Ieri è andato a Livorno, l'hanno accolto a pomodori, a uova, lui ha fatto il dito medio, cioè questa foto, sì, di Salvini sfigati. Serve il coraggio in politica. Sì, il coraggio, lui però se in questo momento tantissimi lo contestano, gli dicono razzista, vergognati, cioè ci sarà anche un motivo. Lui usa dei toni, ha alzato molto i toni di recente, no? Non è... Come si fa a dire becchino in un momento come questo? Per esempio becchino, cioè, è forte come Renzi frase, no? Sicuramente è confuso, in questo momento si parla di guerra che sembra di stare, capito, alla seconda guerra mondiale col Duce che buttava 3-4 disgraziati lì pensando di avere forza della Germania, siamo a questo livello qua, però al di là del fatto che siamo scoordinati e non si sa neanche cosa faremo, che se non interviene l'ONU siamo praticamente immobilizzati, tutto benissimo, sì. Detto questo, ma ti pare che tu puoi utilizzare questi toni? È chiaro, usa dei toni elettorale. È questo che allora, dico, usa dei toni nostro, da Mare Nostrum ad oggi, cioè negli ultimi 2 anni la Lega ripete sempre le solite cose. Ok, va bene, non mi sembra che il linguaggio di Salvini sia il problema del nostro paese. Poi va bene se uno ha questa, ripeto, fobia anti-Salvini, ma ci sta, voglio dire, c'è anche da comprendere questo bisogno dei grandi giornali, di qualche giornalista che vive con l'ossessione di Salvini. Sì. Però scusatemi una roba, secondo voi quando Renzi dice a Salvini sei uno sciacallo con un'invasione di fatto in corso da 2 anni, gente che muore, se quello gli dà del becchino, lui gli dà lo sciacallo, gode per quelle disgrazie, e vede Salvini dice io non voglio più vedere barconi che si rovesciano, gente che parte e muore. Vabbè, io vorrei calmare un po' Aurora Lussana, vorrei un po' tranquillizzarla, quindi vorrei farti ascoltare Laura Boldrini, perché da Floris di martedì, Laura Boldrini, la presidenta. Canterà Bella Ciao il 25 aprile? Beh, sarò a Reggio Emilia e sarà difficile non cantare Bella Ciao. Grazie davvero al presidente della Camera, alla presidente della Camera. Alla presidente. Alla presidente della Camera, Laura Boldrini. Grazie. Ciao, Bella Ciao. Alla presidenta, come, no, alla presidente, non ho capito, poi è la presidente, va bene, no, non è la presidenta, addirittura, la presidente. Aurora, adesso pensa fino a 25, no, 30, no, mi è, 50, mi è 100, no, prima no, di guarda, dire qualcosa su Laura Boldrini. No, sono in fase di destrudo. Destrudo? Sì. Cioè? Quella che si contrappone alla libido. cioè la libido, quella parte vitale, energica, creativa, l'eros, la pulsione di vita. Quando sento quelle robe qui mi viene la pulsione di Thanatos, cioè di destrutto, di angoscia. Cioè io lo traduco come se fossi maschio, mi si è afflosciato tutto, annientamento, ecco, questo, di me stessa, ecco. Sì. Cioè se io fossi voglio dire un uomo direbbe proprio me, no? Ecco, destrudo, ecco, mi è scesa la guallera. Ecco, questo no, vi ringrazio per il soccorso, perché insomma, siamo più per gli uomini del popolo. Ecco, mi è scesa la Waller. Ecco, questa è Veronica, Veronica Gentili, docet, doc, Veronica Gentili, doc. Vabbè, ma su questa cosa, Veronica, almeno la tu come la chiameresti? La presidenta? La presidente? No. Allora, su questo abbiamo già fatto polemiche in tutte le salse, e anche lì, appunto, la Boldrini è assolutamente un personaggio che si rende ridicolo da solo, però c'è da dire che in questa situazione la Floris per una volta, e grazie sempre agli interventi della nostra del nostro amato Salvini, che in quel caso non siamo noi che lo tiriamo in causa, ma è lui che ha iniziato le polemiche con la presidente della Camera, devo dire che l'ho trovata carina, che insomma rispetto al tema poi è stato in gran parte la resistenza, il 25 aprile, mi è sembrata molto molto onesta, molto diretta, molto schierata, e dei momenti mi ha fatto simpatia. Ma tu Aurora, bella ciao, l'hai mai cantata? Aurora? Sto pensando. Ma so, quando ti ho fatto svenire, no, con questa domanda. No, no. Forse quando occupavano il mio liceo, io ho fatto il Sarpi a Bergamo, fammi pensare qualcosa. Ma allora fai così, guarda, pensa durante il traffico, se vuoi anche addirittura cantarla, noi siamo qua, dopo il traffico. Siamo qua. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti? Grazie. 24 mattino. Caro Alessandro, volevo dire al nostro caro Premier che io fino allo scorso anno compilavo da solo il 7.30 congiunto. Quest'anno lo compilo sempre da solo, ma sono costretto a portarlo al CAF al costo di euro 40. Sono un pensionato, gli 80 euro non li ho presi, ma in compenso ne pago 40. Grazie Matteo. Ale, senti un po', io al mattino faccio colazione e devo dire che ho la digestione un po' lenta. Io non ce la faccio a sentire la santa che dice che bisogna bombardare delle barche piene di donne e bambini. Io non ce la faccio. Io propongo di bombardare casa sua. Alessandro, io ti ascoltavo sempre in podcast, pensavo a che ora cominciavi. Solo alle 6:30, ma brutto debosciato, ma almeno alle 6 devi cominciare a lavorare. E che sistema è? Milan, veramente, adesso mi porti anche nel pollaio con ste galline e lasciala stare sta Aurora, porco Giuda, e non lo so cosa la dici continuamente a fare, lascia stare, sono tante le donne molto più intelligenti e molto più cose, basta pollai di donne in questo modo come stamattina. Basta ste galline come Aurora Lussani. No, vabbè. Vabbè, voglio tranquillizzare quello che mi dice che dovrei iniziare a lavorare alle 6. Ecco, no, se non si è sentito, l'editoriale è molto stringato. Milan, dimmi. La resistenza cosa fu? La cacciata dello straniero. Ci ha pensato nel traffico, attenzione, il traffico che è stato un problema, lo rimanderemo in onda. La cacciata dello straniero. Quindi? Sì, non è andato il traffico, ho detto cosa è successo. No, è successo un problema. Ho messo su Radio Padania, intanto. Tutto a posto il traffico. vuoi farci un traffico? Cosa dice il traffico delle valli orobiche? C'è sulla Val Seriana. C'è un presidio. Un presidio ponte, di trattori. Per impedire l'arrivo di clandestini. Perché è così ormai, ragazzi, dobbiamo imparare a tutelare. Vabbè, ma l'hai cantata mai o Bella Ciao, sì o no? Ho capito. Io non mi ricordo, no, perché vuoi cantarla qui? Veronica, tu sì. È intonata, è un'attrice, ha studiato dizione, canto, immagino. Partigiano. Ecco, vabbè, insomma, potevi lanciarti un po' di più, Vabbè, lascio i brava Aurora, brava Veronica. Veronica, sei molto gnocca. Lorenzo da Milano. E salvi. Grazie. Vabbè, sì, questi sono un po' il tenore dei messaggi che sono arrivati in questo momento. Bene. Allora, dobbiamo parlare anche di legge elettorale. Ma sì, dai, parliamo di legge elettorale. Oh, qua abbiamo. Del divorzio. Abbiamo del divorzio. Vuoi parlare del divorzio? No. Sei anche sposata e vuoi già parlare del divorzio? No, ma infatti ci pensavo ieri. A lei la legge per il divorzio breve non le serve. Ma infatti. Allora. Ma io sono contro il consumismo in genere, anche quello affettivo, umano. Però no, effettivamente da questo punto di vista sono d'accordo. Esatto. Quindi, tu cosa te ne frega del divorzio che il 6 giugno ma ti sposi? A parte che a un bravo cattolico le leggi sul divorzio, sull'aborto non dovrebbero neanche interessare, perché sono un bravo cattolico, non divorzia, non fa aborti e non sceglie l'eutanasia. Dico. No, quindi un bravo cattolico. E tu ridi, un bravo cattolico. Abbiamo capito che tu non rientri in questo. Vabbè. No, scusami, allora divorziare è un diritto, ma dovrebbe essere un dovere di tutti non arrivare al divorzio. Sì. Abortire è un diritto, ma dovrebbe essere un dovere di tutti non arrivare a quello. Insomma, nel senso c'è anche un. Che ne pensi, Veronica? Bella, interessante questo discorso sui diritti e doveri. Tu, Veronica, come la vedi? Io sono d'accordo sul fatto che il consumismo affettivo e sentimentale sia assolutamente da tenere sotto controllo e che penso che sia anche molto speculare a tutto il resto, all'approccio che si ha adesso, per cui tutto si compra e si butta dopo un minuto e mezzo. Questo è vero. Detto questo, però, secondo me è giustissimo il divorzio. Errare è umano e quindi penso che poi rimanere schiacciati in un circuito all'interno del quale non riesci più a trovare la tua libertà. Punti. Il matrimonio come la patente a punti, cioè più uno sta insieme più viene premiato, dai, deve esserci anche sempre una un incentivo. Cioè, invece non so, ti trovano a fare un aperitivo con uno con una 5 punti via. Trovano a baciare. No, beh, l'aperitivo 5 punti effettivamente sono stato esagerato. Tanto per l'aperitivo. Cioè, ti trovano a baciarti con uno e una che non è tua moglie. Dovrebbe essere un meccanismo premiale per quelle coppie che insomma restano insieme, magari. Ma punti di che? Un incentivo economico. Ma punti di che? Ti compri una zuppiera, due bicchieri, tipo, punti di che cosa? 80 euro per la fedeltà, capito? 80 euro per ogni coppia che resta insieme ed è fedele ogni anno. Beh, la fedeltà è una cosa bella, un bel valore. Ho capito, ma i punti a cosa ti servono? Una volta che c'hai 2000 punti fedeltà per il matrimonio, cosa ne fai di questi punti? No, deve essere un incentivo innanzitutto economico a sostegno delle famiglie, però anche a livello premiale, evitare che saranno contente tutte le coppie di fatto che si amano tantissimo, che però non potranno, vabbè, insomma. Lei ha ragione sul fatto che il divorzio breve non deve diventare un incentivo al fatto che ci si sposi ogni 6 minuti e mezzo e che poi uno sappia che si divincola alla Liz Taylor, per quanto la cosa abbia il suo fascino. Vabbè, ma lei si può comprare tutto con i soldi che ha. Vabbè, io qui a Veronica Gentili, Aurora Lussando e splendide donne, ma vi voglio far sentire il ministro Maria Elena Boschi, perché come dice le C, le S, come suonano le sibilanti nella voce di Maria Elena Boschi, mi spiace, ma credo che non sia comprensibile, a mio avviso, chi oggi ha invocato il voto segreto, a meno che non ci sia una qualche forma di imbarazzo rispetto a non votare una legge elettorale identica a quella. Sì, onesta, Aurora Lussano, voto alle C e alle S similari. Meravigliosa, mi incanta questa donna, te l'ho sempre detto, la donna angelicata, per me una meraviglia. Ecco, quindi voto. Poi tu hai questo debole per le donne toscane, io pensavo che avessi il debole per noi lombarde, invece ho scoperto che questo debole per le toscane, va bene. Anch'io credevo che avessi il debole per noi romane. No, ma io ho il debole per tutte, ma sono... Io ce l'ho per i brianzoli, per le toscane va bene. Va bene. Io ce l'ho per i napoletani. Ecco. Veronica, non potevi lanciare questa bomba carta all'ultimo secondo di fronte a Aurora Lussano? L'ho voluto fare, è stato più forte di me. Ma c'è chi c'ha il mito delle donne brasiliane, delle polacche, io c'ho quello dei brianzoli, delle napoletane, va bene. Va bene, Aurora, siamo in un mondo... una meraviglia. Va bene. È bello perché è vario. Così Aurora, ma ci sarà il 6 giugno un invitato napoletano? Uno. No. Romano? No, non c'ho amici pari, cioè scusami, è un'amica. Porca miseria, quindi ho capito, c'avrai un'amica, un amico. E beh, Veronica, adesso tu lo sai che tutti coloro che partecipano 24 mattino di diritto possono andare. La mia migliore amica è di Desenzano del Garda, quell'altro. Sì. No, non c'è, no. Non c'è. Vabbè, ma fai in tempo a trovarli da qui al 6 giugno. Io vi devo salutare, vi devo mandare un abbraccio a Aurora Lussana e Veronica Gentili, grazie, siete state un gentilissime. Bacio. Alla prossima. Ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti e sono pronta a leggere i giornali per l'appunto. Oggi parleremo ancora della situazione immigrazione perché l'Unione Europea sta decidendo, deciderà qualcosa, forse l'opzione militare, staremo a vedere. Intanto avremo ospite il generale Fabio Mini. Avremo ospite il collega Fausto Biloslavo, avremo ospite anche Regina Catrambone. Chi è? È una imprenditrice calabrese che porta avanti un'iniziativa assolutamente privata, e cioè ha finanziato una nave che soccorre privatamente tutti i migranti che fanno la traversata del canale di Sicilia. È un'iniziativa che suscita molte reazioni, critiche, elogi. Sarà nostra ospite alle 8:20. Lei vive a Malta e a bordo di questa nave fa questa iniziativa proprio filantropica, privata. Discuteremo con lei e con gli ospiti. Ora andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. In questo giovedì 23 aprile, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è questa: fondazioni e banche, parte l'autoriforma, tetto azionario al 33%, Banca Italia approva la svolta. Poi la situazione migranti per il Corriere della Sera, migranti, le misure europee, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero, navi e aerei, la risposta dell'Unione Europea. Per il giornale, sì all'opzione militare, titolo di prima pagina, mentre Avvenire, così l'Europa prova a fermare gli scafisti. E anche il manifesto, l'Unione fa la guerra, questo è il titolo di prima pagina. La politica torna su Repubblica, voto segreto, ultima battaglia sull'Italicum. Mentre il Fatto Quotidiano, Renzi e Berlusconi vanno alla guerra. Per la Stampa invece il titolo di prima pagina da cui voglio partire è una legge che è stata approvata in via definitiva ieri alla Camera, certamente è di interesse per milioni di italiani, divorziare diventa più facile. Questo è il titolo di apertura della Stampa dedicata al cosiddetto divorzio breve. Anche il Sole 24 Ore mette questi dettagli in prima pagina, il divorzio breve legge 6 mesi per dirsi addio. Sarà breve ma non proprio istantaneo, racconta Andrea Gragnani. Per dirsi addio, arrivare allo scioglimento del matrimonio dovrà passare un periodo minimo di 6 mesi dalla separazione, periodo che raddoppia un anno se invece della procedura consensuale si è scelta quella giudiziale. In ogni caso un taglio dei tempi non indifferente, visto che ora l'attesa tra la separazione e il divorzio è di 3 anni, era addirittura di 5 quando nel 70 fu approvata la legge. Una svolta celebrata ufficialmente anche da Matteo Renzi, che su Twitter ha scritto: un altro impegno mantenuto, avanti, è la volta buona. Per il divorzio bastano 6 mesi, tutti i dettagli ci sono sul Sole 24 Ore, nell'articolo che continua a pagina 43, ovviamente non mancano le polemiche. Avvenire racchiude in un editoriale di prima pagina quelle che sono soprattutto le proteste del mondo cattolico. Luciano Moia racconta sotto il titolo «Un incivile traguardo», davvero un bel traguardo di civiltà l'approvazione del divorzio breve. Quando si ha l'opportunità di risolvere in tempi così rapidi la propria storia d'amore appassita, è inutile perdere tempo con contenziosi patrimoniali. di questo passo sarà la volta della legge che permetterà l'addio istantaneo via SMS incrociato, tutto al più inviando contestualmente una mail all'ufficio anagrafe. Se pensiamo che il matrimonio, scrive Avvenire, e la famiglia che da quel matrimonio sboccia sia un reperto di archeologia sociale, un istituto ormai inadeguato per regolare il traffico impazzito delle relazioni nella nostra fluttuante, capricciosa, scivolosa postmodernità d'Occidente, è giusto provvedere alla sua rapida liquidazione. Non avremo altro da fare che procedere a passi spediti sulla strada intrapresa. Lo Stato, come brillantemente sta facendo, si preoccupi di dare rilievo solo agli affetti, prosegua nel ribadire la sua estraneità alle reali dinamiche sociali della vita di coppia, mostri rinnovato disinteresse, come finora egregiamente fatto, per quelle che sono in difficoltà, agevoli il più possibile l'azzeramento delle coppie che si arrendono di fronte alle difficoltà di una struttura sociale che sembra congegnata apposta per rendere impossibile la vita familiare. Vogliamo davvero questo? Bene, allora dobbiamo dirci con franchezza che anche la nostra società sarà senza passato e futuro, perché al di là di quanto proclamato dalle cosiddette teorie del gender, non abbiamo inventato ancora nulla che possa sostituirsi al matrimonio e alla famiglia. Questa è la posizione di Avvenire, ho letto la più critica, perché per il resto tutti i giornali raccontano intanto la svolta storica, fine di un matrimonio in 6 mesi, il divorzio breve diventa legge. Questo è anche il titolo di pagina 24 del Corriere della Sera. Fatemi fare un collegamento con questo articolo di Libero, dove c'è il caso di un signore a Padova, lo racconta la pagina 18 Alessandro Gonzato, che invece ha deciso di sposarsi, e fin qui direte vabbè, come milioni di persone, no? Ma ha fatto un patto prematrimoniale con la futura moglie. Io, sottoscritta Orietta Lago, dichiaro che niente avrò a discutere sul calcio Padova e accetterò che il mio futuro marito si rechi allo stadio per le partite giocate in casa e per tutte quelle in trasferta da lui ritenute importanti ed interessanti. Questo è il succo dell'accordo che Gianfranco Borsatti, 55 anni, super tifoso del Padova, ha voluto firmare con la moglie, del tipo io ti sposo ma il Padova viene prima, il Padova calcio, e quindi andrò allo stadio a tutte le partite in casa e a quelle in trasferta che ritengo interessanti. Ci siamo conosciuti nel 95, racconta Gianfranco a Libero, 2 anni dopo siamo andati a convivere, ma io le ho detto subito: attenzione, il Padova non si tocca. E così il matrimonio chissà se avrà successo. Vabbè, se no c'è sempre il divorzio breve, a questo punto. Veniamo alla politica. Alcuni articoli di politica mi hanno abbastanza colpito. Il primo è questo, ne abbiamo parlato varie volte, del finanziamento pubblico dei partiti. Partiti che ormai sono falliti, sono al collasso, devono licenziare le persone, devono chiudere le sedi. E allora, racconta il Sole 24 Ore, quatti quatti, silenziosi, i partiti preparano il ritorno a fondi pubblici. Pagina 7 del Sole, casse vuote, dipendenti in cassa integrazione, sedi che chiudono, bilanci che chiudono in rosso, finanziamento privato via 2 per 1000 miseramente fallito, come, aperta parentesi, abbiamo raccontato una settimana fa in onda, chiusa parentesi, come hanno dimostrato insomma tutti i dati, i partiti sono al collasso. Quale migliore congiuntura allora per ritentare l'assalto al forziere dei fondi pubblici? I primi in ordine di tempo sono stati i deputati di SEL. Hanno presentato una proposta di legge per istituire il fondo per il finanziamento dei partiti e movimenti politici. Meccanismo semplicissimo, 1 euro per ogni voto raccolto. Ma è come prima, più o meno come prima, ma solo per chi riesce a eleggere almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o europeo, o almeno in 3 consigli regionali. Al Senato ci pensa invece l'ex tesoriere di S, Ugo Sposetti, a depositare un articolato che prevede primarie obbligatorie per scegliere i candidati alle europee, politiche regionali, e istituisce contestualmente un fondo di 2 milioni di euro per realizzarle. E via così, tentano di nuovo il ritorno del finanziamento pubblico ai partiti. Evviva, ma per dar l'idea che nulla cambia o poco cambia, Ecco che anche la Camera, anche questo l'abbiamo raccontato ospitando l'immobiliarista Sergio Scarpellini qualche tempo fa, cioè il proprietario della società Milano 90, affittuaria di 4 palazzi fino a qualche tempo fa della Camera. Adesso i palazzi affittati sono 2, prima avevano disdetto tutti i contratti la Camera, anche perché i prezzi non erano proprio prezzi di mercato, ma ora, come racconta Libero, la Camera rivuole 2 palazzi d'oro. 2 dei 4 palazzi della società Milano 90 di Sergio Scarpellini dovrebbero essere ancora affittati. C'è una trattativa in corso tra la Camera e Scarpellini. Scarpellini chiede 8 milioni di euro più IVA e servizi a parte. La Camera è pronta a sborsare 5 milioni e 508 mila euro e 510 più IVA per l'affitto di questi 2 palazzi. E allora si va avanti con la trattativa. La distanza è di 2 milioni e mezzo di euro l'anno di affitto, ma Scarpellini ha pronta la controproposta, racconta Franco Bechis sul Libero. Il prezzo è ok, quindi il vostro prezzo, ma vi dovete fare carico del futuro dei 283 dipendenti dell'immobiliare Milano 90, come se non ci fossero già abbastanza dipendenti alla Camera. Come finirà? Staremo a vedere anche questa puntata. Ma adesso, se siete in macchina, l'invito è quello solito, di tenere le mani ben strette sul volante, perché sennò questo è l'articolo che ci fa più incazzare della giornata e magari vi viene da dare pugni. E noi non ripaghiamo volanti, questo sia chiaro, qui a Radio 24. Voi pensate che gli sprechi avvengano solo o esclusivamente nel Parlamento italiano? Sentite questa che racconta Ivo Caizzi a pagina 23 del Corriere della Sera, riguarda la Commissione europea. Guarda caso, succede che spesso i commissari europei il venerdì o il lunedì, i giorni cioè attaccati al weekend, siano in missione, in mezzo a 50 virgolette, in missione nella loro città natale. La settimana corta dei commissari a spese europee. Venerdì 24 aprile è un normale giorno di lavoro. Così ben 6 membri della Commissione europea hanno deciso di mettere in agenda una missione nella loro città di origine. Il commissario slovacco per l'energia, Šefčovič, questo venerdì sarà a Bratislava per un incontro politico nella sua Bratislava. Il commissario spagnolo per il clima, Cañete, è atteso nella sua Madrid per un discorso in un club. Il commissario portoghese per la ricerca, Moidas, parteciperà a una conferenza nella sua Lisbona. Il commissario ungherese per la cultura, Navracsics, ha appuntamento nella sua Budapest con il direttore di un museo. E andando avanti così, il caso più clamoroso è quello di Moscovici, commissario per gli affari economici, che dall'insediamento è risultato nella sua Parigi ben 23 volte di lunedì e venerdì, su totale di 40. 23 volte su 40. Ovviamente vanno in missione nella loro città natale. Capita il venerdì, capita il lunedì, la missione nella loro città natale, quindi si beccano i soldi per pure la missione. Sono in missione. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Come disse quel parlamentare, credo un parlamentare lo disse, circonciso. Ebbene sì, evviva. Allora, cari ascoltatori, il tema immigrazione è sempre in primo piano, perché oggi l'Europa deciderà al Consiglio straordinario dei capi di Stato e di Governo sull'emergenza immigrazione. E che cosa deciderà? Beh, qualche anticipazione dai giornali c'è. Sia l'opzione militare, qualcuno dice, serve però il mantello dell'ONU. La bozza certamente è pronta, azione militare antischiavisti. Però guardate, l'articolo forse più interessante a proposito dell'opzione militare è quello di Paolo Valentino a pagina 5 del Corriere della Sera. I droni armati che mancano all'Italia, impossibile averli prima di un anno. L'ipotesi di usare droni, come si è letto più volte, per colpire e affondare i barconi dei trafficanti prima che partano dalle coste è una chiacchiera inutile e illusoria. Inizia così l'articolo di Paolo Valentino. Non solo e non tanto perché in questo momento all'Italia manca la tecnologia necessaria per armare i 6 Predator B detti anche Reaper, a disposizione delle forze armate. Quanto perché, anche nell'ipotesi impossibile che gli Stati Uniti ci dessero domani il know-how per renderli letali, occorrerebbero da 6 mesi a 1 anno per applicarlo e avere un embrione di capacità operativa. Questo è ciò che dicono fonti militari autorevoli al Corriere della Sera, fonti che sono basite di fronte allo sproloquio nella concitata conversazione politica e mediatica seguita al terribile naufragio di domenica. Insomma, ci dice il Corriere che anche se dicessero ok, Italia, magari non l'Unione Europea, non la NATO, che ne so, ma l'Italia parta con i droni, può farlo, siete voi capofila, non ce li abbiamo, non abbiamo la tecnologia, e anche se arrivasse ci vorrebbero 6 mesi almeno per metterla a punto. E quindi, voglio dire, di che stiamo parlando? Dall'altra parte si dice ma controllare le coste, dove partono, da dove partono, chi lo sa, chi non lo sa. Guardate il giornale, pagina 5, Gianni Calessini, inviato in Libia, a Zuara. Eccolo qui: da qui partono i barconi della morte. Va nella azienda dove vengono fabbricati tutti i barconi della morte, quindi un'industria. Sanno tutti dov'è. Anzi, inizia proprio così Michalessin l'articolo: se il ministro Alfano o qualche collega europeo vogliono sapere dove sono i barconi, il giornale è lieto di accompagnarli. La fabbrica, o meglio il cantiere dei barconi, lo conosciamo bene. Si trova poco prima dell'entrata di Zuara, 16 km a ovest di Mellita. Siamo in Libia, L'enorme complesso petrolifero dell'Eni, a 16 km dall'enorme complesso petrolifero dell'Eni, da cui parte il gasdotto Green Stream. Riconoscere la fabbrica dei barconi non è difficile. Le imbarcazioni sono allineate sul lato destro della strada, 2 chilometri prima dell'entrata di Zuara, coi pancioni appoggiati sui cavalletti che ne sorreggono chiglia e fasciame, quelli già dipinti al classico azzurro pastello. Cozzano violentemente col verde della campagna. Altri in fase embrionale attendono i carpentieri incaricati di terminare la cabina di pilotaggio e il quadrato posteriore. E racconta Mohammed al giornale: un tempo questo cantiere vendeva ai pescatori, ma da quando Zuara è diventata il centro del contrabbando di clandestini, i suoi affari si sono moltiplicati. Eccole qua, il viaggio con tanto di foto sul giornale nell'azienda dove costruiscono questi barconi. Poi certo ci sono le polemiche politiche, le abbiamo sentite alle 6.30, lasciamo stare i rinfacci, sciacallo, becchino, assassini, colpa vostra, colpa tua, colpa di mia nonna, colpa mia, colpa di Carmelo Lauricella in regia. La questione pratica è che succede adesso dei migranti. Il Viminale, cioè il ministro del Ministero dell'Interno, dice ne arriveranno 5.000 a settimana ancora per un po' di tempo e quindi vanno trovati i posti, cari sindaci, cari presidenti di regione, cari amministratori. Fassino, che è il presidente dei comuni dell'ANCI, interviene a pagina 5 del Messaggero, intervistato da Sara Menafra, dice: troveremo 40.000 posti in più e i comuni faranno la loro parte. Certo, alcuni sindaci sono già messi di traverso, ma lo faremo. Mentre su Repubblica la polemica è sugli gli albergatori in rivolta. No ai migranti, i prefetti scrivono agli operatori del settore: 35 euro al giorno vi diamo per ospitare i profughi e loro, molti di loro, dicono danneggiano il turismo. C'è però chi accetta, per esempio Paolo Berizzi intervista Carlo Montini, albergatore di Bormio in provincia di Sondrio, dunque siamo in Valtellina in Lombardia, e lui dice: la crisi mi ha svuotato quasi tutte le camere, con loro faccio un affare e aiuto chi ha bisogno. Perché ho accettato, dice questo albergatore di Bormio? Perché non si lavora più. Presenze dimezzate in 2 anni, gente che gira solo coi buoni delle promozioni per gruppi, e se non riempio le camere come pago l'affitto? Un conto è lavorare, un conto è stare a guardare dalla finestra. Ospitando i profughi lavoro e faccio anche un'opera buona. A 70 anni la cosa più importante è essere a posto con la propria coscienza. Guadagna 35 euro al giorno per ogni ospite. Vogliamo fare 2 conti? Certo, togli le spese, il costo del personale, 2,50 euro al giorno che devo dare a ognuno degli ospiti per le necessità personali, la scheda telefonica da 10 euro, la fototessera per il permesso di soggiorno. Alla fine, esentasse, tirerò fuori 3.000 euro al mese con tutti. Però dice li ospito e per ora non mi hanno dato alcun problema. Gli unici che sono scappati sono stati gli eritrei, ma la questura me l'aveva detto. Gli altri, bravissime persone, mi hanno anche ringraziato. Se potrò, magari ne assumerò addirittura qualcuno. Devo capire solo gli aspetti burocratici. Vabbè, la polemica c'è, certo, leggete anche Repubblica, Repubblica con Alessandra Ziniti, racconta il traffico dei soldi. Sapete i trafficanti che sono stati arrestati a Palermo? Ebbene, eccolo qua, il tesoro dei trafficanti investito a Dubai. In pratica Alessandra Ziniti racconta che funziona così. Ci sono i trafficanti di uomini che lucrano su questi viaggi, guadagnano soldi, li mettono nelle banche magari a Dubai. Queste banche sapete chi finanziano in parte? Alcuni dittatori africani che fanno le dittature in Africa, le quali dittature spingono le persone ad andare verso l'Europa e pagano i barconi, pagano i trafficanti che mettono i soldi a Dubai, che finanziano le dittature in Africa, che fanno partire le persone, che pagano i trafficanti con i soldi che vanno a Dubai. Insomma, avete capito? E noi pensiamo di risolvere in 448 una situazione che è così globale. Vabbè, questo per quel che riguarda l'immigrazione, affronteremo dalle 8:15. Per quel che riguarda invece la politica, il tema è la legge elettorale. Solita, il Corriere fa i conti di quelli che sono i voti alla Camera, 393-237, questo è il margine di cui gode Renzi quando da lunedì approderà l'Italicum alla Camera, ma si pensa al voto di fiducia perché il grande dubbio è che faranno quelli del PD, i dissidenti. Voto segreto no, dice il ministro Marina Boschi, mentre Renzi, secondo Repubblica, si è andato a lasciare una serie di sfoghi personali. Li racconta Francesco Bei a pagina 12 e 13 nel consueto retroscena, a dire: la questione è chiusa, l'Italicum tra 10 giorni sarà legge. 10 giorni, cari ascoltatori, siamo alla 103esima settimana decisiva. 10 giorni, dice Renzi, e sarà legge. Ma quanto accaduto, la minaccia della fiducia e dimissioni, sono cicatrici che resteranno. In particolare Renzi pare abbia detto di Bersani: Bersani sembra aver perso la testa. Matteo Renzi, così dice Repubblica. Caro Meazza, noi la testa della classifica abbiamo perso da un bel po'. Alessandro, purtroppo anche da lunga pezza e di tanti punti. Vabbè. Tra l'altro va ricordato che la capolista ha raggiunto proprio ieri sera un importante traguardo, anche se tu ed io il calcio maggiore. Ma quando ora incontrerà finalmente una squadra di calcio, chi lo sa? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, intanto però complimenti alla capolista, e noi, come dire, guardiamo da lontano. Senti, di cosa vuoi parlare? Di voluntary disclosure, abuso fai del tu, diritto, fai tu. Fattura elettronica, internazionalizzazione, era tutto in programma, già ieri ti ho detto che erano stati varati questi schemi, e infatti oggi ne parliamo ancora sul Sole 24 Ore. Tra l'altro, tu che hai questi due urini che ballano un po' in giro tra i vari, sono già destinati alla Grecia, che ha bisogno di 400 milioni. Ma guarda, te lo volevo proprio consigliare, perché infatti tu forse hai visto a pagina 4 del Sole 24 Ore queste anticipazioni sull'incontro di oggi e poi gli incontri che ci saranno in futuro per appunto risolvere questo problemuccio di liquidità della Grecia, che non si capisce bene come si possa risolvere. Le parole di Draghi: non si esce dall'euro, non è prevista l'uscita dall'euro, sono state tonificanti, però adesso bisognerebbe anche trovare appunto i tuoi due urini e qualcos'altro. Tra l'altro, di fronte alla pagina a fronte, la pagina numero 5, perché dico il numero? Perché più o meno si scopre che mancano 5 e spicci miliardi, 5,7 nei nostri conti. C'è un problema anche un po' linguistico, secondo me, perché i problemi vengono dallo split payment, dal reverse charge, E dalla spending review, ecco, o review come combinate come tutto preferisci. Questo e fa 5 miliardi che mancano. Sono 6 parole in inglese, però poi in italiano vuol dire che ci stanno ballando. Ne avrei una in italiano per tradurre tutto ciò, ma non la dico. Non essere scurrile. Invece ti voglio dire che però questo problema di questo sì della UE che non arriva e non si sa se arriverà su alcuni meccanismi dell'IVA, appunto split payment e reverse charge, potrebbe portare poi degli aumenti del prelievo sulla benzina. Strano. Comunque ti do una buona notizia: hanno chiesto di dare un bonus ai ragazzi che leggono libri, riviste o quotidiani. Non so se tu rientri nella categoria dei ragazzi, se vuoi possiamo falsificare, ecco, visto che lo fai di perché lavoro per il resto, chiedere, il resto sì, c'è, manca solo la quota anagrafica, diciamo. No, in realtà il problema è molto serio, perché come sai in Italia leggiamo molto poco. Un libro, cioè metà della popolazione praticamente non legge neanche un libro l'anno, ecco, questo è un po' il numero che sempre si evoca in questi casi. Vabbè, eravamo arrivati ben indirizzati, perché stavamo parlando appunto di aumento del prelievo, possibile aumento del prelievo sulla benzina, e questo mi serve per dirti che sono arrivato anche alla mia parola chiave, e cioè traffico. Per me la rassegna stampa di Alessandro Milan e per me questo è sempre il migliore, è sempre il migliore, assolutamente. Dovremmo metterlo tutti i giorni. Allora, parla anche Berlusconi, redivivo, torna in campo, chi lo sa, certo non presenzierà ai comizi. Perché? Perché ha detto Berlusconi, incontrando i propri parlamentari, parteciperò sia alla campagna elettorale, ma non farò comizi. Mi hanno detto che potrei essere oggetto di attentati. Sembra che io sia in cima agli obiettivi dell'ISIS. Così ha detto Silvio Berlusconi, che poi ne ha per Matteo Renzi. È malato di bulimia del potere. È affetto da questo problema, e poi non è stato scelto dagli italiani. All'Europea ha preso il 40% del 20% dei votanti, al massimo è stato eletto alla provincia di Firenze, vabbè, anche sindaco, diciamo, a Firenze. Comunque dice: io ho raggiunto il 75% di gradimento personale nel 2009, lui ha il 35%. Insomma, non esagero, gli stavamo apprestando un aiuto per consentirgli un regime. Questo ha detto ai suoi parlamentari Berlusconi, riferitosi ovviamente al patto del Nazareno, immagino. Comunque Berlusconi dice: non vado in piazza, sono l'obiettivo dell'ISIS. Ieri sul Corriere della Sera abbiamo letto, e ha fatto molto scalpore, questa notizia di ragazzi giovani che avrebbero rifiutato, fino a contratti di 1.300-1.500 euro netti al mese, per lavorare 6 mesi all'Expo. Certo anche l'estate, certo anche il sabato, la domenica, turni serali, eccetera. Io devo dire, l'ho letta, questa cosa mi ha un pochino, non dico insospettito, non voglio mettere in dubbio, ma... non so, anche noi abbiamo ricevuto mail in redazione di persone invece che raccontavano di paghe offerte per lavorare all'Expo ben al di sotto. Comunque il tema ha suscitato il dibattito, insomma. Allora, questi ragazzi sono choosy, come disse nella celebre frase l'allora ministro Elsa Fornero, cioè questi ragazzi un po' schizzinosi che rifiutano addirittura 1.500 euro al mese. Oggi tornano molti editorialisti, Vittorio Feltri ne scrive sul Giornale, Roberto Ciccarelli ne scrive a pagina 7 del Manifesto, dice: altro che ciusi, il lavoro è dignità. E cioè racconta le storie di chi ha reagito a quest'articolo e racconta altre realtà, come quella di una ragazza che dice: a me hanno offerto 500 euro netti per uno stage da 6 mesi, venivo da Torino, ho fatto i miei calcoli, 350 euro per spostarmi coi mezzi, e quindi mi rimanevano 150 euro al mese, non mangio con 150 euro al mese. Il dibattito è aperto. Allora, le generalizzazioni sono sempre la morte dei dibattiti. Uno dice: ma allora questi ragazzi sono dei fannulloni o no? Ma che ne so, chi ci ascolterà? Qualcuno farebbe salti mortali per avere anche uno stipendio di 1.000 euro al mese, qualcuno certamente, figlio di papà, per 1.200 euro al mese non rinuncerebbe alle vacanze alle Seychelles. E che vi devo dire, ognuno poi ha la propria storia personale. Ho detto le Seychelles perché voglio salutare il nostro Remo, che ci segue dalla Dig. Ciao Remo, ci fa sapere Remo, sempre in presa diretta, il nostro cuoco di La Dig, che alla Dig splende il sole e ci chiede se vogliamo andare a fare i clandestini là. Va bene Remo, ti sei guadagnato anche l'insulto quotidiano da parte di molti ascoltatori, con grande affetto. Veniamo ad altre notizie di cronaca. Una notizia che Miriam Massone racconta sulla Stampa, pagina 14, è questa: è una delle prime cause che sono finite con una condanna per stalking condominiale a Roncoscrivia in Liguria. Torture quotidiane, uscire di casa, sentirsi osservati dalla finestra, la musica nel cuore della notte a tutto volume, colpi di bastone alle pareti, spazzatura gettata dal balcone, urla "vostro figlio la pagherà". Per 4 anni due giovani sposi hanno subito persecuzioni e insulti dai vicini di casa in un condominio a Roncoscrivia. Poi è arrivata la denuncia e ora la condanna. Il giudice ha condannato madre e figlio, autori di questi, di questo stalking condominiale, a 4 mesi di carcere più il risarcimento dei danni. È uno dei primi e rari riconosciuti casi di stalking condominiale. Lo racconta la Stampa a pagina 14. Mentre sappiate, cari ascoltatori, che a New York anche gli scimpanzé avranno diritto all'avvocato. È una causa che gli animalisti hanno vinto, di poter rappresentare in aula degli scimpanzé con presenza di avvocato, scimpanzé che si oppongono loro, chissà. Cosa ridi Carmelo? È così. Si oppongono gli scimpanzé, forse, ma l'avvocato assicura di sì, allo spostamento da un luogo all'altro. E quindi il giudice ha detto: hanno diritto gli scimpanzé ad essere rappresentati in aula con la presenza degli avvocati. Non si capisce quali saranno gli scimpanzé e gli avvocati, ma questo è il dato di fatto. Mentre sappiate anche che Libero racconta, pagina 19, con Alessandro Dell'Orto, apre, inaugurato lunedì, e l'articolista dice: per favore non fermatevi al titolo, andate avanti, il Museo della Merda apre a Milano, ed è una vicenda tutta seria, il Museo della Merda, un'azienda agricola del Piacentino ripercorrerà la storia, insomma, di tutto ciò. Pagina 19 di Libero, è ufficiale, ci sarà anche il primo fossile della prima cacca di dinosauro, se volete trovarla. Vabbè, ma siamo in diretta anche su Periscope, dunque siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, è sempre su Libero, eccolo qua: Fidel Castro, che è vivo, è risuscitato per la 10ª volta, credo. Fidel Castro cambia sponsor, la Puma al posto dell'Adidas. Sapete che è sempre in tuta Fidel Castro, ora ha cambiato sponsor, non più Adidas, Puma. Ma chi se ne frega. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. vi presenta, ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnastrandaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi c'è il vertice straordinario a Bruxelles sull'immigrazione. Cosa deciderà l'Europa? Lo vedremo e ne discuteremo dopo le 8:30. Darà il via libera, per esempio, all'opzione militare? Distruggere i barconi vuoti, ovviamente, prima che partano dalla Libia? Staremo a vedere. Non è che per questo si fermino le migrazioni, sia chiaro, al limite moriranno nel deserto. Ma qualcuno pensa che occhio non vede, cuore non duole, è una politica anche questa. In Italia le polemiche si sprecano con il solito scambio di invettive. Salvini: Renzi insulta la Lega, ma alla fine è costretto ad arrivare alle conclusioni della Lega. Ci ha messo 5.000 morti e 2 anni di tempo per arrivare a quello che sostiene la Lega da tempo. È un becchino incapace e pericoloso. Un becchino. Anche Grimoldi della Lega, la Lega sapete è in prima linea su questo. Grimoldi. Abbiamo sempre saputo che eravate un governo di bugiardi. Sappiamo da qualche settimana che siete anche un governo di assassini. Risponde così il Presidente del Consiglio, Renzi. Non si affronta la questione degli sbarchi dalla Libia semplicemente parlando alla pancia delle persone. Qualcuno dice che questo è il modo per vincere le elezioni. Allora, queste sono parole, schermaglie politiche. Io voglio partire da una storia concreta di chi le parole non le fa, ma fa i fatti. E ha preso un'iniziativa filantropica. Che fa molto discutere, qualcuno la critica, qualcuno la elogia. La protagonista di tutto ciò, una dei protagonisti, è Regina Catrambone, che saluto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Regina Catrambone è calabrese, è nata a Reggio Calabria, ma da qualche anno vive a Malta col marito Christopher. Sì, che sono cosa avete... 7 anni ormai. Esatto, cosa avete fatto? Avete messo in piedi un'operazione che si chiama MOAS in acronimo. Ci spieghi di cosa si tratta? Sì, nel 2013, quando ci sono state tutte quelle morti in mare a largo di Lampedusa, noi avevamo già accolto l'appello di Papa Francesco, e poi quando è iniziato il Mare Nostrum ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo acquistato un'imbarcazione, il Phoenix a Norfolk, Virginia, e l'abbiamo attrezzata. Siamo arrivati a Malta, abbiamo creato un helipad e abbiamo noleggiato due droni. Sì. Abbiamo due droni, due gommoni veloci, e dall'anno scorso siamo stati in missione per 60 giorni, da agosto ad ottobre, e siamo riusciti a salvare 3.000 persone. Cioè, voi avete una nave, la Phoenix, una nave privata, con due droni, due gommoni veloci, due droni per controllare, due gommoni veloci per arrivare sul posto, e salvate i migranti in mare. Lo fate perché? Innanzitutto, scusa, ti devo correggere, noi abbiamo fondato una ONG, sì, il MOAS, che significa l'acronimo di Migrant Offshore Aid Station. Esatto. Quindi non facciamo questo come persone fisiche, cioè lo facciamo fisicamente. Avete una ONG, certo. Sì, abbiamo una ONG, e poi ci sono persone che hanno servito per più di 26 anni nella Guardia Costiera. La Guardia Costiera, e quindi sanno quello che stanno facendo, non ci siamo improvvisati. Assolutamente no. No, ma rimane la questione: perché lo fate? È una questione filantropica, è una questione. La risposta è molto semplice: perché finché ci saranno persone che moriranno in mare, queste persone devono essere salvate, ci deve essere ricerca e soccorso in mare. È un vasto tratto di mare e non è possibile che nessuno faccia ricerca e soccorso quando si sa che partono, le persone partono e muoiono. Regina, conosci Gianni Morandi, il cantante? Certo. Sai che ha scritto su Facebook un post di solidarietà verso queste persone che fanno questi viaggi della speranza, spesso purtroppo muoiono, ed è stato subissato di insulti dalla cosiddetta rete, a dire portali a casa tua, fai... Ma io ne ricevo tantissimi, ricevo di che email, tenore, di che tenore? Anche di peggio, va. Ma questa purtroppo è la disinformazione, questo è perché la politica ha messo becco nel SAR, nel soccorso e ricerca. Ormai si cercano i voti sulle disgrazie delle persone e ci si accusa a vicenda, ci si punta il dito, si crea più animosità. In un momento di difficoltà non bisogna farsi prendere da questi momenti di paura, cioè bisogna essere maturi, affrontarle e con ponderazione. La nostra natura umana ci porta ad aiutare le persone che sono più deboli, anche gli animali lo fanno, quindi se noi stiamo facendo questo ci stiamo snaturando. Ecco, ci sono tante parole appunto dei politici, voi dal vostro punto di vista, cioè vista dal mare, tu ci stai parlando da Malta appunto, e salvate, avete detto 3.000 persone avete salvato fino a questo momento, vista dal mare, tutta questa polemica come la vedete? È una grande perdita di tempo, perché ora aspettiamo, io sto andando a un funerale, infatti ho poco tempo perché sto andando a un funerale di 24 persone che sono arrivate qui a Malta. Quelle della grande tragedia ultima. Sì, oggi ci sarà, fra 30 minuti ci sarà il funerale alle 9, quindi ho voluto veramente, mi hanno fatto molto male quelle parole che ho sentito prima di accusa fra di noi, e l'umanità deve, la politica deve tendere all'umanità e non viceversa. Non è possibile, ogni ora queste persone, il numero delle persone aumenta, e quello che noi contiamo è solamente quello che noi sappiamo, perché come hai detto prima tu, tutte quelle persone che nel tragitto muoiono nel deserto, nessuno le conta, nessuno le vede. Io, no, certo, io in un'intervista che ho letto, un'intervista a te di recente, mi ha colpito questa frase. Sì, lo facciamo anche per filantropia. Purtroppo la filantropia è un valore del secolo scorso, diciamo, forse anche di due secoli fa. È questa una delle motivazioni filantropiche? Certo, assolutamente sì, e spesso, specialmente io sono amante della storia, quindi le cose del secolo scorso, come ha detto lei, però se ci sono, se sono state usate, se sono state fatte, hanno creato del bene, è bene continuare a farle, incito tutti quelli che possano facciano. Mm-hmm. Infatti ha invitato anche i privati, chi come noi ha deciso, può decidere, ha dei soldi a disposizione. Ho letto oggi su Repubblica la storia di un imprenditore tedesco che ha detto: ho visto tutte queste scene, mi è venuto da star male e sto mettendo in piedi una barca per andare a fare un'azione, sì, privata di soccorso. Naturalmente poi bisogna guardare le navi come sono, come vengono strutturate e quello che faranno, perché di nuovo noi abbiamo fatto tutto questo senza tagliare, prendere scorciatoie. Noi abbiamo fatto tutto questo avvalendoci di avvocati marittimi, quindi volevo far chiarire che non è importante fare queste cose ed aiutare gli altri, ma con dei criteri. Certo, non improvvisarsi. Non improvvisarsi. Poi il mare non ha caverna e tu devi andare lì a salvare. Ma una volta che li salvate, o creare più confusione. Una volta che li salvate, dove li portate? A Malta? Noi siamo sempre, non siamo indipendenti, noi dipendiamo, come tutte le forze del mare, dal centro coordinamenti. Le centri coordinamenti sono loro che ci dicono dove andare e quello che fare, chi prendere, chi non prenderli, come prenderli. Dove disimbarcarli. Ovviamente. Quindi, la vostra attività, essendo privata, non è quello di cui vivete, però molti ci chiedono anche via SMS: ma dove trovate i finanziamenti? Ti correggo, non è un'attività privata, perché noi solo l'anno scorso abbiamo deciso di fare questo perché non sapevamo se ci riuscivamo, e quindi abbiamo deciso di affrontare questo con i nostri denari l'anno scorso. Quest'anno stiamo ancora finanziando, ma siamo stati anche finanziati, il MOAS. Noi siamo in raccolta fondi sul nostro sito, sì, www.moas.eu. Noi abbiamo una raccolta fondi continua, perché certo, essendo una ONG si può sì, finanziare. Si può donare, quindi chi possa fare. Però voi avete messo inizialmente, credo, quanto? 2 milioni di euro di investimento? 8 milioni di dollari. 8 milioni di dollari, quindi molto di più. Avete quindi ci sono moltissimi che sicuramente criticano. Qual è la critica peggiore? Dice che le arriva via mail. Cos'è che fa più io male? Non mi neanche le leggo più, perché sono solamente delle perdite di tempo. Se fossero delle critiche costruttive le leggerei. Ma infatti quelle costruttive le leggo. E invece l'elogio migliore? Gli sguardi di una madre siriana quando aveva un figlio collassato, saliva in nave, e poi quando il bambino si è ripreso, non ci sono parole per descrivere gli occhi di una madre, perché sa che suo figlio non sta più morendo, il bambino stava bene dopo che è stato curato dal dottore in nave, non era più in pericolo di morte. Per concludere, ci sono tante ricette che oggi discuterà l'Europa: azione militare per distruggere i barconi, il blocco navale, la cooperazione coi paesi, ma sappiamo che la Libia è un paese allo sfascio. La sua ricetta, così, da una che lo vede tutti i giorni questo esodo? Dobbiamo essere positivi e dobbiamo smetterla di guardare solamente le cose negative intorno a noi. Non dobbiamo innervosirci o spaventarci, dobbiamo prendere delle decisioni ponderate e dobbiamo ascoltare quello che verrà detto oggi. Casomai poi ci risentiamo. Ci risentiamo. Allora, io la ringrazio molto. Voglio ricordare ancora il sito www.moas.eu. È una ONG, Regina Catrambone, ripeto, calabrese di origine, ma da 7 anni a Malta col marito Christopher, fa questo, e cioè con una nave, la Phoenix, 2 droni, 2 gommoni, hanno salvato 3.000 persone in mare. Sono arrivate, lo so già, ma tante critiche, messaggi a dire, sì, e magari avranno anche uno stipendio di questo. No, vivono di acqua del mare salata e di aria. Ma che razza di ha uno stipendio? Perché uno che mette in piedi una ONG non dovrebbe avere uno stipendio, caro Massimo? Non lo so, ma poi ci ha detto che hanno messo 8 milioni di dollari di investimento iniziale privati, evidentemente perché li avevano, sono una famiglia facoltosa. È male anche questo? Ah, mamma mia, c'è sempre questo approccio. Discutiamo delle cose. Adesso discuteremo, dopo la pubblicità, con il generale Fabio Mini, con il collega Fausto Biloslavo. Discuteremo di quello che potrà decidere concretamente l'Europa. Ho voluto partire, sono voluto partire da un racconto, visto che si parla tanto, magari chi ci manda i messaggi sta comodamente andando a lavorare, non ha visto il mare se non d'estate da un lettino e da un astraio. Sono voluto partire da un racconto di una storia, di una persona che lo fa quotidianamente, di affrontare il mare e di salvare vite umane, e che tra mezz'ora andrà, come ci ha detto, al funerale di 24 persone morte, recuperate, 24 di quelle 700 forse scomparse nel canale di Sicilia. Si chiama Regina Catrambone. www.moas.eu. dopo la pubblicità state con noi, se volete chiamare 800 24 0024. Siamo qui, 8:35. Allora, l'Europa oggi fornirà la ricetta, le ipotesi di come si può fermare e affrontare la questione epocale dell'immigrazione. Segnalo 2 articoli. Il Corriere della Sera dice: fonti militari italiane accreditate dicono che, in maniera basita, che questo discorso sui droni e l'utilizzo dei droni per bombardare i barconi vuoti è follia, perché l'Italia non ha la tecnologia militare allo stato attuale per fare tutto ciò. Se anche chiedessimo aiuto agli americani ci vorrebbero 6 mesi per allestirla almeno. Segnalo anche un altro articolo interessante, Alessandra Ziniti su Repubblica. Funziona così: i trafficanti di uomini speculano, usano questi barconi e questi guadagni, mettono tutti i soldi che guadagnano a Dubai. A Dubai tutto ciò finanzia in parte anche le dittature africane, e dalle dittature africane la gente parte per andare a cercare un posto migliore. Affrontano il viaggio, pagano i trafficanti che mettono i soldi a Dubai, che vanno ai dittatori, che fanno fuggire le persone, e così via. Ecco, tenete bene a mente anche questi due meccanismi quando pensate che sia una soluzione facile. Voglio salutare il generale Fabio Mini. Buongiorno generale Mini. Buongiorno a voi. Così come saluto Fausto Biloslavo, collega, ciao Fausto. Buongiorno. Del giornale, del Foglio, di Panorama. Scrivi ancora collabori per tutte. Allora, generale Mini, intanto, l'Italia sarebbe pronta a un'opzione militare? Cioè, avremmo questa tecnologia? Mi ha colpito sul Corriere a sentire dire che non abbiamo questa tecnologia. Ma il fatto che non abbiamo la tecnologia significa che dal punto di vista militare è stato preso in esame soltanto questo aspetto della questione. E mi sembra un pochettino riduttivo, non è che si tratta soltanto di un problema tecnologico. Usare e impiegare i droni significa andare a bombardare, non dico al buio, ma qualsiasi brigante può mettere degli scudi umani, della gente dentro barche anche ancorate, anche portate in secca da qualche parte, e fare in modo che poi ogni attacco armato di droni o di qualsiasi altra cosa diventi una tragedia. Sì, un po' pericoloso. Per la verità, oggi il giornale pubblica, per esempio, con Gian Michalessin, un reportage a dire: venite qui, questa è la fabbrica vicino a Mellita, tra l'altro vicino all'impianto dell'ENI in Libia, dove fabbricano i barconi. Però bisognerebbe andare a colpire una fabbrica proprio, no? Ma si può, si si può pensare di colpire tutto. Io penso sempre a questa opzione militare piuttosto che quella di bombardare più o meno alla cieca da molto distante, quella di inviare delle forze speciali che ad obiettivo mirato e obiettivo accertato, che non contenga, che non comprenda dei civili innocenti o dei migranti, dei poveracci, faccia fuori gli strumenti. Cioè, però stiamo sempre parlando di una soluzione che è dietro casa, no? Come se il problema nascesse lì e poi si potesse risolvere lì. Non è no, così. È chiaro che non è una soluzione, non è una soluzione assolutamente totale. Ma non ferma neanche il flusso, perché i flussi di solito si spostano proprio nei punti, dai punti più difficili ai punti più facili. Ma poi io l'ho detto come apertura, anche se vuole come provocazione, e non ferma i flussi neanche sapere che da domani i rubinetti per l'Italia venissero chiusi. E vabbè, e come ci racconta anche Fausto Biloslavo, spesso che succede, Fausto? Moriranno nel deserto queste persone che migreranno e non riusciranno più a partire? Beh, sicuramente il problema è a monte, no? Cioè, come dire, non è solo sulle coste libiche, questa gente parte e affronta dei viaggi infernali per mesi e quindi, cioè, come dire, l'altro giorno è venuta fuori la notizia che i paracadutisti francesi che operano in Mali e anche in Niger si sono lanciati su un passo fra il Niger e la Libia per controllarlo. Perché? Perché da quel passo passano anche i terroristi, i miliziani, e passano poi le carovane di questi disgraziati, che la cui sicurezza viene garantita dai tagliagole, che si beccano il pizzo dai trafficanti per garantire la sicurezza di questo passaggio. Sì, che poi, e che poi veramente questo giro per cui i soldi vanno poi magari nelle banche, finanziano le dittature, dalle dittature si scappa. Ma la cosa incredibile, noi l'abbiamo scritto sul giornale prendendo spunto dalle intercettazioni della Procura di Palermo su questa cellula di scafisti che faceva parte di una grossa rete di scafisti, forse fra le più grosse annidate in Libia, ma questi signori parlano e dicono che depositano i soldi in Svizzera, Israele e che hanno appena comprato una casa di 13 i dollari ad Addis Abeba, cioè sono come i pirati somali. Ecco, tu citi proprio la Somalia, perché alla Somalia si guarda come un'opzione dal punto di vista militare, cioè dire facciamo come si è fatto in Somalia con le navi dei pirati. Che vuol dire, Fausto? Ma sì, questa è un'opzione. In Somalia con i navi dei pirati fondamentalmente bloccavamo, intervenivamo in qualsiasi momento quando c'era un abbordaggio, e spesso anche alcuni paesi, non noi purtroppo, gli americani, i francesi, e questo è l'aspetto forse più importante, sono andati a prendersi i pirati somali a terra o anche in mare, li hanno arrestati, li hanno processati, condannati anche a pene durissime. Quindi secondo me non bisogna fermarsi all'idea del drone. Dopo dirò una cosa sul drone clamorosa per quanto riguarda il fatto che è disarmato e che non è ancora allora il drone, perché non è disarmato il drone? Noi l'abbiamo comprato dagli americani, il Predator è un drone comprato dagli americani. Quando eravamo in Afghanistan all'inizio non volevamo bombardare e quindi se lo fotografavamo. Ancora adesso in Iraq, nella missione contro l'ISIS, abbiamo i caccia, abbiamo i droni che solo fotografano, bombardano, poi passiamo le foto agli altri che bombardano. Bene, poi in Afghanistan abbiamo cambiato idea. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Che per ottenere i missili Hellfire, che vanno sotto i droni e che servono a bombardare, a fare questi bombardamenti mirati, bisogna avere l'autorizzazione del Congresso americano, cioè di quelli che ce l'hanno, venduto. E quindi ci vogliono 6 mesi almeno. Infatti, questa è la cosa allucinante. Infatti. Cioè, quindi, non è solo una questione tecnica che bisogna mettere il missile, bisogna fare, è una questione anche politica. Sì, rischiamo di arrivare in inverno quando i barconi poi non partono più. Quindi, tutti questi che parlano senza sapere di cosa parlare, è veramente una buffonata, capito? Cioè, noi li abbiamo comprati sapendo fin dall'inizio che avevamo bisogno di 6 mesi di tempo minimo per avere l'autorizzazione. Servivano a fotografare. Però io, generale Mini, lei oggi in un lungo intervento sul Fatto Quotidiano racconta quello che ci sta dicendo, cioè lo spot delle bombe, parlare solo di opzioni militari, parlare solo di blocchi navali, sono soluzioni magari temporanee che però non risolvono il problema alla radice. Ma sai che molti dicono, ma dobbiamo risolvere il problema, sistemare i problemi del mondo, fare i buonisti per cui dobbiamo risolvere tutte le disuguaglianze. Non si tratta di risolvere tutte le disuguaglianze. si tratta di affrontare questo problema alla radice e non alla fine, perché alla fine non si conclude niente. Anche con l'operazione Atalanta contro i pirati somali, una differenza sostanziale che c'è con la situazione attuale è che i pirati somali erano pirati e sulle barche ci stavano i pirati, qui sulle barche ci stanno gli innocenti, non è che ci stanno soltanto due scafisti, per ammazzare due non se ne possono ammazzare 700. Che c'è, Fausto? Erano e pirati, quindi, ma prendevano in ostaggio. Sì, facevano assalti, no? Facevano assalti alle navi, ecco, anche ai mercantili. Per quello io dico che i corpi speciali non solo possono infiltrarsi e far saltare per aria le barche degli scafisti, tenendo conto ovviamente di stare attenti che non ci siano civili attorno, ma possono andare a catturarli gli scafisti, perché li intercettiamo, esatto. Sappiamo dove sono, devono andarli a prenderli e dobbiamo processarli e condannarli all'ergastolo, perché sono così. In alcuni casi succede, in alcuni casi, oggi racconta i giornali, escono dal carcere, poi non è facile dimostrare che siano stati loro, eccetera. Però, Mini e Biloslavo, generale, cosa può fare l'Europa secondo lei oggi? Cosa decideranno? Saranno le solite chiacchiere europee oppure qualcosa di concreto ci sarà? L'Europa ci ha abituato a tutto, ma soprattutto ci ha abituato alle chiacchiere. Quindi prenderemo anche queste con beh, però stavolta ha fatto un consiglio straordinario, qualcosa di... Ma tutti i consigli sono straordinari, perché se non parlano soltanto della frutta da sistemare, parlano sempre di cose straordinarie. Qui non c'è niente di straordinario. Questa qui non è nemmeno un'emergenza, l'ho scritto. Questa qui è ormai uno scompenso, uno squilibrio cronico che bisogna affrontare seriamente. Ora, uno di quegli strumenti con i quali affrontare sarebbe quella di cominciare a dire a livello internazionale chi sono gli stati canaglia, e tra gli stati canaglia, oltre ai banditi che sono individuali, ci sono delle istituzioni. Ma voglio dire, noi adesso ancora stiamo lottando per capire dove vanno a finire i soldi, chi è che li prende, ma anche questo è uno dei flussi che è da fermare. E soprattutto le sanzioni internazionali che devono essere prese, secondo me, nei confronti di quegli stati che agevolano. Ma per esempio a quali stati si riferisce? Ma io mi riferisco all'Egitto, mi riferisco al Mali, mi riferisco al Niger, mi riferisco alla Nigeria, mi riferisco alla Somalia, mi riferisco a tutti quei posti in cui ci sono nostri inviati e nostri, cioè nel senso di occidentali, sia diplomatici che aiutano invece per altri versi questi governi. Sì, su questo Fausto Biloslavo, effettivamente io sono d'accordo nel fatto che noi vediamo il fenomeno, come dire, nel prodotto finale, ma che da anni la situazione in vari paesi, soprattutto subsahariani, sia allo sfascio, e poi queste cose lentamente producono una piccola massa, una piccola valanga di persone che adesso guardiamo, ma esattamente, cioè non vediamo il problema a monte, che è il problema più grosso, e non dimentichiamoci che non tutti scappano dalla guerra, perché c'erano molti migranti del Burkina Faso, dove insomma non c'è la guerra civile ma dove c'è povertà, ovviamente scappano alla ricerca dell'Eldorado occidentale. Quindi da questi paesi a monte, prima della Libia, prima del deserto del Sahara, ovviamente bisogna in qualche maniera intervenire. E anche secondo te, Fausto, che deciderà l'Europa? Insomma, il generale Mini allora, è molto scettico. Finché, per quanto riguarda l'Europa, finché non vedo, non credo assolutamente, quindi devo proprio vedere, ma spero, auspico che questa sia la volta buona. Io posso dire solo una cosa, quello che pochi giorni fa gli scafisti dicevano anche un po' ridacchiando: sì, l'Europa parla, ma poi non fa niente, noi andremo avanti nel nostro business. Ecco, speriamo di no, almeno le dichiarazioni, però è chiaro che l'Europa, sottoscrivo anch'io, ci ha abituato, è un meccanismo talmente burocratico che insomma non è che non pensate che oggi a Bruxelles dicano ok, da domani si fa così, cos'ha e si fa 1, 2, 3, 4. Burocratico, io voglio vedere dopo, appunto, gli americani, i francesi l'hanno fatto in Somalia, ma voglio vedere chi manderà i corpi speciali a catturare a Zuara, vicino a Misurata. Bravo, dovesse esserci un'opzione militare, Sarà Sharia qui, che ha aderito al califfato, a catturare gli scafisti, sapendo perfettamente che sono là, che per di più non sono neanche libici, la maggior parte sono eritrei. No, ma infatti si dice opzione europea, opzione militare, poi chi la guida? Non abbiamo neanche un esercito europeo, quindi figurarsi. Stiamo a vedere con ottimismo che dobbiamo fare, questo ci rimane. Ringrazio il generale Fabio Mini e ringrazio Fausto Biloslavo, collega del giornale del Foglio e di Panorama. È il momento del traffico. Lavoratori, farà. Dei nostri lavoratori che con passione ci scrivono continuamente mail a 24 mattino e radio24.it perché vogliono raccontare in onda la loro attività. Oggi voglio salutare Lorenzo. Buongiorno Lorenzo. Ciao, buongiorno a te Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Lorenzo è un radiologo, no? Fino a qui è un lavoro, lo dico, abbastanza comune, però insomma, però c'è un qualcosa di particolare. Qualcosa di particolare che fa Lorenzo, un radiologo a domicilio praticamente. Esattamente. E perché? Cioè, ti sei inventato con alcuni amici, colleghi, che cosa? Allora, inventare non ci siamo inventati niente, ci siamo dati da fare per aprire un servizio, avviare un servizio unico in Toscana, primo ed unico. Io insieme a un altro mio amico e collega, anche lui tecnico di radiologia, diciamo, abbiamo lavorato a questo progetto, abbiamo messo in piedi appunto questa azienda che si occupa esclusivamente di offrire un servizio di radiologia domiciliare, quindi eseguiamo tutte le radiografie a casa dei pazienti. E come fate? Sì. Voglio dire, vi spostate con un furgone, ma c'è un furgone attrezzato? Esatto, abbiamo attrezzato un mezzo dove abbiamo una parte dell'apparecchiatura che portiamo direttamente a casa dei pazienti e funziona con la normale corrente domestica, mentre la restante è fissa sul mezzo e serve per la visualizzazione e trasmissione delle immagini ai medici radiologi con i quali collaboriamo. Ma perché vi siete inventati questa cosa? E tu ci hai detto è l'unico caso in Toscana, cioè il primo e unico. Sì, siamo primi ed unici, esatto. Primo e unico servizio. Beh, certo, se uno, che ne so, magari è un po' anziano, non ha qualcuno da trasportare per il trasporto e si è rotto una gamba, è bello comodo chiamare e dire vorrei fare una radiografia. Ma perché vi siete inventati questo strumento? Allora, è inutile negare che sicuramente un po' per la crisi, perché anche nell'ambito sanitario, diciamo, il lavoro non è che abbondi, e in più ci piaceva l'idea di offrire un qualcosa di nuovo, anche facendo corsi in giro per l'Italia vedevamo questa tendenza un po' di tutte le professioni sanitarie di spostarci verso il domicilio, sul territorio. E chi vi chiama in genere? Cioè, per che cosa vi chiamano? Una frattura? No, Sì, per controlli di frattura, per sospette fratture, per controlli al torace, per polmoniti. Esattamente è una radiologia mobile, esatto. Come, però con la comodità che uno va, fa una telefonata, prenota, ma ci sono le liste d'attesa? Come, no? No, assolutamente, noi interveniamo in tempi base al molto traffico, brevi. C'è il traffico, sì, la esatto. Lista d'attesa, un'ora di fila su, non so, l'unico limite è quello può capitare, però è molto veloce, nel giro di, o nella giornata stessa o il giorno successivo interveniamo, e inoltre consegniamo il referto in tempo reale, quindi sul momento. Beh, bellissimo. Allora, Lorenzo, dai, fatti un po' di pubblicità, avete un sito, avete qualcosa con cui si può contattarvi? Sì. Abbiamo un sito che è www.diagnosticasa.it e un numero di telefono per prenotare che è 366 4975 876. Ci sono tutte le informazioni possibili. E quello magari si è perso nella velocità. Comunque www.diagnosticasa.it. E poi voi potete scrivere sempre la mail anche a noi, 24mattino@radio.it, e noi vi diamo ovviamente tutti i riferimenti di Lorenzo. Lo fate solo in Toscana, ovviamente, ma in tutta la Toscana? Allora, per il momento solo in Toscana, poi visto che il servizio funziona bene, stiamo lavorando anche a un progetto franchising, quindi potreste allargarmi, allargare. Bellissimo, in bocca al lupo davvero Lorenzo, grazie per essere stato con noi, radiologo a domicilio con un furgone, www.diagnosticasa.it, andate lì se avete bisogno, spero di no, insomma, nel senso, non è che non voglia dare lavoro a Lorenzo, ma spero che state tutti bene. Giampaolo da Padova, concludiamo con lei, ascoltatore. Giampaolo, buongiorno, sul tema immigrazione. Buongiorno, immagino. Buongiorno a me. Che ci vuole dire? Era in merito alla vicenda dei barconi, sì. All'opzione dell'abbattimento dei barconi prima che partano. Ho una domanda da fare al generale, ma in parte avete toccato questo argomento. mi sono sempre, appena l'ho sentita, come sia tecnicamente realizzabile questa soluzione, perché o si ammette che si abbatte sistematicamente tutta la flottiglia da pesca che staziona davanti ai porti libici, anche quella che serve per andare tranquillamente a sgombri, tutte potenzialmente barche in cui si possono imbarcare gli immigrati. Caro Giampaolo, questo è un po' il rischio. L'idea, oggi il giornale racconta, per esempio, vi facciamo vedere dove le fabbricano, una fabbrica dove fanno tutti i barconi che servono per queste cose. Però certo, lei pone una problematica che c'è. Ma con questa problematica chiudiamo, attendiamo oggi l'Europa. L'Europa, chissà che ci dirà l'Europa. A domani. 24 mattino.